Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Hai sentito parlare di quella videocassetta che se la guardi muore? La mandi in play e sei dentro un vero incubo. Appena finisce, il tuo telefono squilla e qualcuno dice questa frase: morirai fra 7 giorni. Katie ti ha detto che stava per morire? Sì, me l'ha detto. Ha detto che non aveva tempo. Vorresti dire che sono un'ingenua? No. Una che si spaventa? Sei un po' neurastenica, forse. Ho guardato la cassetta. 7 giorni. Quanti scherzi vi siete fatti negli ultimi 15 anni telefonando a qualcuno dicendo 7 giorni? C'era anche persino la pagina web di promozione, mi sembra della seconda edizione, del secondo film The Ring, che c'era appunto la possibilità di mandare un numero di telefono, il messaggio 7 giorni, e dopo 7 giorni si schiattava. Era un gioco legato a un The Ringu, una serie giapponese terrificante dei primi del 2000, in cui c'è questa storia qui di Samara, questa ragazzina che muore scannata dentro un pozzo, riviene fuori e fa comunque strage di giovani adolescenti, ma attraverso un sistema, una videocassetta, un VHS data all'epoca, che girava, in cui c'era un filmato, chi lo vedeva dopo 7 giorni moriva. Una, naturalmente, frutto di fantasia, una saga fortunata, The Ring, c'è stato un merchandising immenso, ancora vediamo dei cosplayer che si vestono da Samara, io stesso ho fatto foto in un pozzo con un'amica mia che usciva fuori con i capelli bagnati come Samara, perché ci ridevo con i miei figli, ma allora il grande Filippo aveva 10 anni, qualcosa del genere, poi già si divertiva con queste cose. Non ha creato vittime The Ring, perché? Perché era chiaro che fosse una fiction, tanta paura, ma quel brividino che piace tanto ai ragazzi delle storie dell'orrore. Mi stanno scrivendo i genitori, vorremmo sapere cos'è la sfida di Blue Whale, la balena azzurra. Perché? Perché i nostri ragazzi tornano a casa da scuola e ci raccontano qualcosa di terrificante, che somiglia molto nel presupposto alla storia The Ring. Anche qui c'è una sorta di messaggio che circola attraverso i social network, con una base leggendaria, parte dalla Russia, in cui c'è, ve lo sintetizzo, poi lo saprete ancora più nel dettaglio, una sorta di perverso gioco che nascerebbe da una vulgata giornalistica sempre non corroborata da un esatto riportare le fonti. Ci sarebbe una sorta di master, di ragazzo che hanno arrestato in Russia, ma l'hanno arrestato un anno fa, quello di cui si parla nei giornali, che avrebbe, per purificare l'umanità, lanciato questo gioco che prescriverebbe una sorta di prove sempre in crescendo, che vanno in prove sempre più crudeli, sempre più autolesioniste. L'ultima delle prove è appunto il suicidio indotto, e hanno cominciato a circolare sui giornali voci terrificanti: centinaia di ragazzi suicidati, un caso di Blue Whale anche in Italia, un suicidio dovuto a Blue Whale. Siccome quando si parla di suicidio di adolescenti sono quelli i temi che alle scuole di giornalismo dicono che vanno trattati sempre con estrema delicatezza, perché esiste un effetto terrificante che induce comunque le persone già con delle debolezze, delle fragilità, comunque a seguire la scia di un gesto estremo. Oggi ne parleremo semplicemente citando delle persone informate dei fatti, e vi daremo in questa trasmissione gli strumenti tecnici per rispondere ai vostri figli quando tornano a casa spaventati, perché hanno visto anche loro il disegno del tatuaggio del ragazzo che si è scarnificato in un braccio il disegno della balena, che poi è sempre lo stesso, che gira in tutti i siti, e sembra chissà che centinaia di ragazzi stiano facendo la stessa cosa. Tra un istante, preparatevi carta e penna, e soprattutto telefono 800 24 00 24. Se avete domande su Blue Whale, questa è la mattina giusta. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Non mi metti una citazione per delle chiacchiere. Coraggio, fammela vedere. Signora Keller, mi preoccupano questi disegni. Perché hai disegnato quella casa? Perché me l'ha detto lei. Chi? Chi te l'ha detto? Mi fa vedere delle cose. Qualcuno mi aiuti! di morire si vede il cerchio. Le immagini nella cassetta ci portano da qualche parte. Ti faccio vedere i cavalli. Tu non capisci, Reja. Mi dica, che cosa pensa? Continuo a insistere a farvi ascoltare pezzi di The Ring, perché io personalmente, questa è una mia lettura personale, l'opinione che sono fatto leggendo il materiale informativo e le valutazioni di persone che sentirete tra poco sul fenomeno Blue Whale, che si assomigliano, si assimilano i due episodi. So che su Blue Whale è nata una sorta di meccanismo di mitopoiesi giornalistica, cioè i giornalisti, i giornali, le notizie, la rete hanno creato il mito di qualcosa, probabilmente in nuce esisteva, era una delle tante cose folli che nascono in rete, una tante le cose estremamente borderline, la zona oscura della rete, dove ci può essere qualcuno che comunque gioca anche a istigare le persone ad atti di autolesionismo. Ma sono convinto che improvvisamente la sigla Blue Whale, il disegno della balenottera tatuata o scarnificata sul braccio del ragazzo, hanno assunto una rilevanza tale proprio perché il parlarne tanto, il parlarne molto, parlarne senza la giusta verifica delle fonti ha fatto sì che il fenomeno improvvisamente esistesse. È un po' come una profezia che si autoavvera. Improvvisamente siamo tutti convinti, sono convinti i ragazzi, sono convinti i genitori, sono convinti anche gli operatori comunque della sicurezza, che possa essere qualcosa di estremamente pericoloso. Oggi Fiorenza Sarzanini dedica al Corriere della Sera un'intera pagina dove intervista il direttore della Polizia Postale Nunzia Ciardi, che dice che in effetti dai loro rilevamenti, da quello che stanno guardando, osservando, esiste certamente un fenomeno emotivo che sta crescendo in rete. Non esistono ancora la possibilità di definire e accertare se veramente esiste un rapporto causa-effetto fra Blue Whale e dei suicidi di ragazzi. Non esistono, il numero di ragazzi suicidati, perlomeno in Italia, grazie per colpa di Blue Whale, è zero, questo ricordatelo chiaro. Però ci sono delle parole chiave legate a appunto alla ricerca che fanno i ragazzi di questo fenomeno, al ripercuotersi, al riverberarsi, al contaminarsi, che comunque è diventato qualcosa che esiste, perché l'abbiamo creato, c'è, e quindi bisogna ridimensionarlo. Mauro Manca, buongiorno. Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mauro Manca, la conoscete, è la Presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza. Noi l'abbiamo chiamata proprio per parlare pochi giorni fa dell'autolesionismo, un fenomeno di cui nessuno parla. Lei ha scritto un libro, Autolesionismo in età digitale, Alpes Edizioni. Quanto è legato il fenomeno Blue Whale, cioè la bomba mediatica Blue Whale, all'autolesionismo, visto che l'unica immagine che dà una barlume di verosimiglianza è un ragazzo che si è proprio fatto un atto di autolesionismo, una balena scarnificata con un chiodo, con qualcosa su un braccio. Sì, è un gioco che non solo poi sul che chiede anche altri atti di questo tipo, di autoaggressività, come il tagliarsi il labbro, il tagliuzzarsi anche in altre parti del corpo e poi tutti i gesti autoaggressivi registrando, tu hai un osservatorio di ragazzi, stai andando adesso in una scuola, Sì. Stai registrando quello che è l'effetto dell'informazione, l'informazione, io posso dire prendendo una responsabilità parziale e molte volte allarmistica o diciamo compiaciuto su questo fenomeno, l'effetto che sta causando, visto che esiste comunque un problema sommesso e sottovalutato di autolesionismo, dire che improvvisamente esiste un grande maestro, un master, che prescrive ai ragazzi di fare atti di autolesionismo progressivi fino ad arrivare alla soppressione di se stessi, trovi ci siano delle verosimiglianze, insomma allinea un fenomeno mediatico in una realtà che comunque è problematica da osservare. Assolutamente sì, questa settimana si è scatenato veramente una psicosi collettiva e generale. Io devo fare una premessa, noi come osservatorio il Blue Whale lo conoscevamo già da mesi, era un fenomeno che però di cui parlavano i ragazzi, ma molto circoscritto a semplicemente quello che dicevi tu, una ricerca di un mistero, non si sapeva niente, si vociferava su questo Blue Whale, quella era più che altro un'attrazione legata a quello che era il mistero di queste persone, è legato un po' all'horror. Ecco, cioè quanti ce ne sono, qua. Scusami Mauro, tu che conosci hai scritto anche un libro su la cultura digitale, adolescenti disconnessi. Esatto. Quanti ce ne sono i fenomeni simili che però non hanno mai avuto l'onore di una sorta di mitologia costruita attraverso i giornali, attraverso i mezzi di informazione, simili, analoghi, di giochi a base autolesionista, orrifica o comunque in qualche maniera di prove legate alla sofferenza fisica, ecco. Molto più del Blue Whale, e questo è il problema. La meraviglia di tutti è che se ne parli solo in questo modo è oggi. I ragazzi conoscono perfettamente questi gruppi chiusi che stanno nel deep web, nel dark web, li cercano e sono gruppi che istigano al suicidio, istigano all'autolesionismo. Noi li studiamo sistematicamente, che attraverso anche normalizzano queste condotte e questi giochi, appunto, che sono tanti in rete e che sono basati su delle forme di adescamento dei minori. Sai che cos'è successo? Che è stato passato il messaggio che si può essere raggiunti ovunque, in qualsiasi circostanza. Esattamente come The Ring. Io ho portato questo esempio. Ha preso diciamo, l'elemento di forza di una fiction. Esatto, è che qualsiasi adolescente, basta essere adolescenti e barra vulnerabili, possa cadere nella rete di questi curatori che ti contattano su WhatsApp, sui social e ovunque. Non è vero, i ragazzi sono terrorizzati, è 10 giorni che noi mattina, pomeriggio e sera siamo nelle scuole con genitori, insegnanti e ragazzi che sono terrorizzati. Allora, ma ascoltami un attimo. Ho ricevuto una segnalazione di un genitore che fino a mezz'ora fa voleva parlare, poi si è spaventato, dice me l'ha scritto, io non me la sento di parlare. Ha un figlio di 9 anni, e in quarta elementare, esiste in quarta elementare già la psicosi e la paura di questo Blue Whale. Il ragazzino è andato dal padre dicendo che ha paura di questa cosa, ne parlano tutti i suoi compagni, naturalmente sono terrificati dal braccio scarnificato con la balena insanguinata e temono anche loro che qualcuno un momento all'altro li contatti come la telefonata di The Ring e siano costretti a una sorta di escalation di dolore che finisce col suicidio. A te cosa domandano i ragazzi? Allora, quello che ci domandano più che altro è la stessa cosa a tutte le età, cioè ci possono contattare in tutti i modi, è vero, possono entrare addirittura nei nostri telefoni e prendere il possesso anche dei nostri profili, e come fanno a manipolarti? Visto che il messaggio che sta passando è così facile, allora noi possiamo caderci tutti in questa rete? Queste sono le domande che ci stanno facendo pressoché tutti i giorni a tutte le età, perché è stato fatto il problema, non è così, non è vero. Prima di tutto va estremamente ridimensionato e forse molto più pericoloso, altri gruppi e altre attività che ci sono in rete sono molto più pericolose rispetto al Blue Whale in quanto però tale. Il Blue Whale ha avuto la benedizione dell'investitura mediatica. Ascolta un attimo, ascolta bene questa telefonata. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, mi hanno detto di parlare a voce alta perché sto guidando e sono in viva voce. Bravo. Mi sente? Sì, sento, dai. Niente, come anticipato al vostro operatore, giusto ieri sera quando sono andato a prendere mia figlia in piscina. Quanti anni sua figlia? 12 anni. Mi ha fatto vedere un messaggio ricevuto su WhatsApp da una sua compagna, dove appunto mettevano in allerta i ragazzi a proposito del Blue Whale, dei pericoli, dei suicidi, eccetera. Ci riesci a raccontarmi questo messaggio? Dimmi cosa c'era scritto esattamente. Sì, le solite cose, state attenti, 157 suicidi, ti chiamano, ti obbligano a fare delle cose perché fanno leva su tuoi presunti scheletri nell'armadio. E quindi nel viaggio di ritorno ho cercato di tranquillizzarlo, ho cercato di spiegare... Cioè, ascoltami bene, no, è importante questo, perché guarda caso... riprende tale quale un episodio di Black Mirror, che è una serie che viene trasmessa da Netflix. Viene preso un ragazzo, osservandolo e spiandolo il suo computer, scoprono su alcune piccole sue mancanze o gravi mancanze, non sto qui a giudicare, e con questo entra in un messaggio di ricatto. Quindi esattamente, vedi che è un mix di leggende prese dalle fiction, quindi ti spiano prima, ti guardano i tuoi punti deboli, le cose che non vorresti raccontare a papà e mamma, e ti costringono su questo ricatto a fare un'escalation di operazioni autolesioniste. È questo il senso? Esatto, e fortunatamente avendo un buon rapporto familiare con le nostre figlie, quando poi sono tornata a casa insieme a mia moglie e l'altra figlia, ne abbiamo parlato a tavola e poi ci siamo messi davanti al computer, ho digitato Blue Whale, che ovviamente in questi giorni appare come primo risultato su Google, e cercando tra gli articoli quelli che fossero un pochino più razionali, un po' neutri, una cronaca invece che fare commenti e fare terrorismo psicologico. Abbiamo trovato un bel articolo del Corriere della Sera. L'abbiamo letto insieme ed è uscito fuori appunto quello che già l'aveva anticipato. Io ti consiglio di leggere quello che ha scritto sul disinformatico Paolo Attivissimo, proprio da anni vive smontando le bufale, fa una disanima precisa anche sul numero dei suicidi irreale, totalmente non provato, non assolutamente vero il fatto che dalla Russia ci siano state 100 e passa suicidi dovuti a questo sistema. Non è vero, non è scritto da nessuna parte, non c'è riscontro, però è vero perché ormai i giornali lo scrivono senza nessun senso critico. Ci fermiamo soltanto un istante, restate in ascolto, fra un po' interverranno altre persone, vi daranno elementi di razionali per spiegare ai figli, proprio come abbiamo detto a Massimiliano, quali sono in realtà gli atteggiamenti da prendere quando un amico ti manda il WhatsApp e dice attento, ti spiano e poi ti ricattano e poi ti costringono a fare delle cose contro te stesso. A tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024. Sento subito Fabrizio, buongiorno. Pronto? L'ascolto. Salve, buongiorno. Niente, praticamente sono un genitore di una bimba di 13 anni, seconda media, e leggendo quello che circola su internet riguardo al problema, insieme ad altri genitori praticamente abbiamo pensato bene, anzi tra virgolette abbiamo pensato male, di parlarne con i figli. Praticamente, per farla breve, abbiamo creato un allarmismo indotto che col senno di poi mi rendo conto di aver sbagliato insieme agli altri genitori, perché loro erano all'oscuro, erano tranquilli, ne sapevano poco o niente, non avevano dato nessuna importanza anche a quel poco che circolava a scuola. Voi perché eravate? Praticamente creato un problema. Fabrizio, cosa vi allarmava voi? Voi avete letto i giornali, avete letto i siti internet, pensavate anche voi che potesse essere qualcuno che poteva raggiungere i vostri figli? Esatto, praticamente consultando le notizie su internet, sui giornali, ritagli praticamente di qualunque notiziario, c'era il problema di cui state trattando, il Blue Whale. E abbiamo praticamente pensato, ritenendolo un problema serio e grave, di mettere in guardia in un certo senso i ragazzi, quando invece si è rivelato un errore boomerang, madonnale, perché mia figlia adesso mi chiede, è preoccupata, quando invece 5 giorni fa era praticamente all'oscuro di diciamo tutto. Che avete trasferito un vostro stato d'ansia genitoriale dovuto al fatto che, non ve ne voglio fare una colpa, ma vi siete lasciati prendere da questa rete emotivo mediatica e giustamente hai detto avvertiamo i figli, come uno direbbe al bambino, sta attento, c'è cioè quel signore, e non accettare le caramelle, nella stessa maniera. Poi in questo caso, non essendoci nessun signore probabilmente, o perlomeno non in quei termini, gli strumenti di sicurezza rispetto a pericoli della rete devono essere dati in maniera seria, concreta, precisa e tecnicamente ineccepibile. In questo caso Blue Whale è una delle tante creazioni in realtà da campagne mediatiche che si autoalimentano. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano, dove dirige il Bicocca Security Lab. Andrea Rossetti, a quest'ultimo padre, essendo anche tuo padre, avendo un ragazzo un po' più grande della ragazza di 13 anni, dove ha sbagliato e quali sono gli strumenti, diciamo, di recupero di questa situazione, tecnici, da docente di informatica giuridica, non da psicologo? Sì, ma anche questo fenomeno dimostra che c'è una scarsa conoscenza dei fenomeni proprio tecnici, come funziona la rete. È praticamente impossibile impossessare al telefonino di qualcuno, a meno che qualcuno non sia stato particolarmente distratto o l'abbia abbandonato da qualche parte. Quindi il problema è unicamente sociale, cioè non c'è nessun attacco di... Sento la mia voce come eco, è davvero fastidioso. Sì, c'è un problema sulla linea. Allora, fermo un attimo, ti richiamiamo, passo a un altro ospite. Sento un attimo, Mauro Manca, su questo padre. Succede anche a te, è successo fra i ragazzi che tu hai, diciamo, in questo momento sotto mano e sott'occhio, visto che ti stiamo avendo in una scuola, che i genitori abbiano amplificato ancora di più un problema che è stato amplificato dai mezzi di comunicazione? Sì, è successo tante volte. Perché? Perché magari il genitore ha letto determinate informazioni o comunque cattive informazioni in rete, creando allarmismi, perché ciò che sta girando, ribadisco, è che possano entrare attraverso WhatsApp, attraverso i messaggi, sono tutti fake quelli che stanno girando, false informazioni. Non si può attraverso un messaggio X entrare direttamente nel gioco e non riuscire a uscirne. Leggendo queste notizie, tanti genitori stanno riportando queste informazioni ai figli in maniera, quello che è importante dire, Gianluca, è che non devono essere allarmati. Se il genitore è allarmato, se il genitore è terrorizzato, il figlio ovviamente percepisce che c'è un reale pericolo da quel punto di vista. Bisogna prima informarsi realmente e poi fare una buona informazione da questo punto di vista. Allora noi consigliamo ai genitori, se possibile, poi scaricate e fate girare il podcast questa trasmissione, non perché noi stiamo raccontando le tavole della legge, però abbiamo messo insieme persone che hanno degli strumenti per raccontare esattamente cosa si può fare visto l'emergenza. Me lo chiede naturalmente anche i colleghi, mi stanno chiedendo, che hanno figli piccoli, ma come lo dico a mio figlio? Sentiamo un attimo, proprio per cominciare a sfatare l'elemento leggendario. Io sono convinto questo è un caso da studiare da uno studioso dei fenomeni che accadono nei media. Una volta si parlava agli studiosi leggende metropolitane come un mito metropolitano, il più banale, i coccodrilli nelle fogne di New York. Ecco, diventa improvvisamente una realtà, anzi una realtà molto più credibile della realtà. Il fenomeno è che qualcosa di leggendario sia degli strumenti che affondano le radici nell'epica attraverso cui l'umanità ha sempre elaborato tutte le sue paure. Tutti i racconti, l'umanità serve a elaborare delle paure, a darsi le spiegazioni. Gli stessi fenomeni in rete creano comunque un'epica parallela, che crea uno strumento di paura, di terrore, come il diavolo che sta dentro le pentole ma non fa i coperchi, come i folletti nella casa, come tutte le stregonerie possibili. Ecco, la rete produce Blue Whale. Andrea Angiolino, buongiorno. Buongiorno a tutti. Giornalista, autore di giochi, ha scritto vari libri sui giochi, fra cui il dizionario dei giochi. Andrea Angiolino si è preso briga, visto che lui di giochi se ne intende, di giochi di ruolo, di analizzare tutte le fonti. Qual è la conclusione a cui sei arrivato? Allora, che è assolutamente indimostrato che esista un gioco così come ci viene raccontato. E ci sono diverse fonti che poi ho raccolto e che sono anche alla base dell'articolo di Attivissimo, dell'articolo sulla rivista del CICAP, di una pagina che io stesso ho postato, e quindi non ci sono prove di questi tutor che sarebbero potentissimi e così via. Se vogliamo citare fra l'altro una persona che sicuramente ha ogni interesse a dire che il fenomeno esiste, c'è la blogger russa che ha parlato per prima del fenomeno agli inizi del 2016, e lei praticamente è stata intervistata dall'AGI in recente e riferisce ad aver parlato con gli investigatori di San Pietroburgo e che non ci sono ancora casi che vengano ricondotti al Blue Whale, secondo questi investigatori. Diciamo l'aspetto fantapolitico, che sia una cosa messa in giro dai servizi russi, da Putin, non sa chi, per destabilizzare, come i virus informatici, ecco, sì, la stessa cosa. Anche molto più semplicemente, questa Galina Mursalieva ha parlato del fenomeno. E, Galina si chiama, sì. Esattamente, soprannominata la chiappa Klikuchka da alcuni. Perché mette in giro cazzate e tutti vanno a vedere il suo blog. Ecco, così per... pare sia successo. Intervista Anton Braido degli investigatori di San Pietroburgo riguardo l'unico arresto che c'è stato finora, questo Budeikin. Tra l'altro un anno fa, dice... arrestato un anno fa e non arrestato ieri, come tutti pensano. Nonostante i giornali poi ci abbiano dato il 14 e 15 maggio un arresto come effettuato in questi ultimi giorni, e forse per fare più notizia perché così unisci due fatti, ci vedi, hanno preso l'ispiratore di Blue Whale che dice l'ho fatto per depurare l'umanità, per purificare l'umanità, figurati. Ecco, anche queste parole fra l'altro sono citate da un sito russo che sostiene di aver intervistato questa persona subito prima dell'arresto, ma non sono confermate. Mi dispiace dirlo per i colleghi, scusa Angino, ma io ho visto i titoli: arrestato l'ideatore, il capostipite, volevo purificare l'umanità, è stato un titolo questo. Esatto, sì, ma anche la notizia che l'arresto sia oggi, anziché a novembre, quando andando su Google troviamo le foto di lui arrestato a novembre 2016, ci dice come vengono passate queste notizie per fare clamore. È ovvio che se io dico arrestato 6 mesi fa, non faccio ascolti, non faccio click. Non c'è rapporto. E fatto sta che... questo investigatore parla di 16 capi di imputazione su questo Budeikin che non sono legati al gioco ma alla manipolazione su siti dove si parla di suicidio, che è un fenomeno noto e più vecchio, e di questi 16 poi nessuno ha portato, lo dice la stessa blogger interessata a dimostrare l'esistenza del gioco, nessuno di questi ha portato delle accuse precise, almeno fino al momento in cui l'ha intervistato. In Italia tutto è esploso per una puntata delle Iene. Ieri ho parlato benissimo, una puntata delle Iene, questa puntata in realtà ha creato il casino in Italia, diciamo la verità. Devo dire che sulla pagina di Attivissimo uno dei commentatori si è posto il problema di reperire i video. Io ho fatto una ricerca su Google con le parole chiave Roof Girls Suicide, suicidio ragazze e tetto, niente a che fare con la Marina Blu, e sono saltati fuori 2 o 3 di questi. Qualcuno ha portato compimento alla cosa, ne ha trovati 5 su Live Leaks, e nelle didascalie non si parla di Blue Wave, ma addirittura ci sono, per chi ha un po' di stomaco forte, ci sono le immagini complete con i corpi straziati. Uno è un adulto cinese, un video di cui un adulto cinese, solo sì, la parte in cui si buttava dal palazzo. Sì. Uno riguarda 2 probabili tossicodipendenti russi, entrambi adulti pure loro. Uno è uno studente di università al secondo anno, quindi non c'entrano nulla con quella fascia d'età fine 17 anni di cui parlavano. Quindi è stato fatto lo stesso meccanismo che funziona sempre per creare una bufala, assemblato elementi spuri con nessun rapporto tra di loro, si è creata una storia, una narrazione su un fatto inesistente. Una bella puntata di un film dell'orrore, sembra quasi Freddy Krueger di Nightmare, che riecheggia e riesce fuori a sterminare i ragazzi, ma alla fine di concreto c'è ben poco. Andrea Rossetti, l'abbiamo recuperato? Sì. Vediamo dal punto di vista proprio dell'esperto in informatica giuridica. Sì. Allora, cosa possono fare questi? Banalmente cambiate password, questa è la prima cosa da fare. Se pensate che il vostro account sia stato in qualche modo hackerato, semplicemente cambiate tutte le password su tutti i device che avete, e questa è la prima cosa banale da fare. In secondo luogo, una volta non si accettavano le caramelle dagli sconosciuti, adesso non si accettano messaggi dagli sconosciuti. Cioè, dite ai vostri figli che se ricevono un messaggio da una fonte ignota, la prima cosa che devono fare non è rispondere, ma andare dall'adulto a dire che ha ricevuto questo messaggio, qualunque sia il messaggio, per quanto imbarazzante possa essere. Qui probabilmente l'adulto deve essere o in grado banalmente di spiegare un po' al bambino come vanno le cose, al ragazzino come vanno le cose, oppure si può rivolgere anche alla polizia, perché la polizia effettivamente sta facendo un buon lavoro, nel senso che sta indagando effettivamente su tutti i dati, su tutti i casi che sono stati segnalati, non più di una quarantina in Italia, peraltro smentendoli tutti poi, nel senso che poi dietro alla fine non si è scoperto, almeno fino adesso, quasi nulla. Insomma, la presa sul serio, se oggi dedica il Corriere della Sera una pagina intera al direttore della polizia postale, che penso ne avrà dei problemi, che si prende la briga di rispondere alle domande di Fiorenza Sarzanini in maniera dettagliata, dice sì, ma l'allarme è dato non tanto dall'esistenza del fenomeno, ma dall'eco smisurata che sta creando allarme attorno a questo fenomeno. Ci fermiamo soltanto un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. A me dispiace doverlo dire, ma leggere un titolo su Libero oggi, il 22 maggio, Blue Whale, il vicequestore, altro che bufala, oltre 40 segnalazioni, è un titolo poi che non corrisponde in realtà a quello che viene detto. Ne è chiamato un vicequestore che dice che in effetti vengono segnalati, ma vengono segnalati nei termini che stiamo dicendo noi. Genitori sono allarmati, sentono dire dai figli, arriva il messaggio su WhatsApp, non ci sono 40 segnalazioni che il misterioso master ha contattato un ragazzino e gli ha detto comincia a tagliuzzarti, comincia a farti del male e poi ammazzati. Non c'è questo. Andrea Rossetti, vogliamo riportare la realtà rispetto a quella che è la differenza fra un vocio che viene riportato dai giornali, quindi entra nel mainstream qualcosa che è soltanto vocio di rete, quindi diventa realtà. Sì, purtroppo di questi articoli in cui il titolo viene poi smentito dal contenuto ne sono moltissimi, e noi sappiamo che molte persone in realtà si limitano ormai a leggere i titoli, quindi generando appunto un eco, no? Una camera ecoica che amplifica questa cosa. Non c'è veramente nessuna evidenza di nessun problema di questo genere oggi in Italia, non ci sono prove. È veramente un fenomeno purtroppo indotto da un uso sconsiderato della rete da parte di alcuni, ma anche da una scarsa conoscenza dei meccanismi della rete da parte di noi adulti, no? Della maggior parte degli adulti, che non sono in grado di spiegare ai ragazzini che effettivamente i rischi che si corrono sono, dal punto di vista tecnologico, praticamente non esistono, ma sono meramente sociali. Dobbiamo abituarci all'idea che noi dobbiamo accompagnare i nostri figli in rete come una volta li accompagnavamo per strada o all'oratorio o alla festa, insomma, perché qui appunto il problema non è più di carattere tecnologico, ma di carattere sociale. Non bisogna accettare messaggi da persone che non si conoscono, non bisogna dare confidenza agli sconosciuti in rete, così come non si fa nella vita di tutti i giorni. E questo è il messaggio fondamentale che deve passare. Purtroppo, ripeto, in molti casi gli adulti non si sentono adeguati e sono i primi ad essere allarmati da fenomeni che invece non ci dovrebbero allarmare. Ma ti ricordi, noi abbiamo analizzato i messaggi che giravano a Roma delle mamme su WhatsApp al tempo degli attentati a Parigi, certo. Non mandate i figli a Ponte Milvio che hanno, certo, detto che vogliono ammazzare dei ragazzi a Ponte Milvio, e tutte le compagni di scuola, di ragazzini che conoscevo, era questo messaggio: mi raccomando, domani tutti a casa, nessuno vada dalle parti di Ponte Milvio, che è un luogo di movida di ragazzini, classico di Roma, perché ci sarà un attentato e ammazzeranno dei giovani. Come nasceva la notizia? Una signora, gli era caduta la borsa, un signore dall'apparenza medio orientale gli ha raccolto la borsa, non so, lei gli ha detto grazie, diceva sei gentile, ti dico questa cosa. Capisci come, certo, il mito esplode? Iride, buongiorno. Sì, buongiorno, ecco, chiamo da Brescia. Io sono completamente d'accordo con quello che diceva la persona poc'anzi, perché in realtà secondo me sono i propri genitori che non sono in grado di gestire queste, tra virgolette, emergenze per i loro figli, e come diceva la persona anche precedente, che sono i genitori stessi che mettono le paure addosso ai loro figli. Ma cosa gli abbiamo insegnato fino adesso? Le mie ragazze proprio 3 giorni fa sono venute e mi hanno detto: mamma, ma lo sai di questa cosa? Quanti anni hanno le sue ragazze? Quanti anni? Allora, una 20 e l'altra 14. Quindi una è piccolina, ma l'altra è già grande, adulta. E l'altra è già grande, ma proprio lei presa mi ha letto tutto l'articolo che c'era su Facebook del servizio delle Iene, di tutto il collegamento con la Russia, perché, certo, si era informata. Diciamo che è bella la storia a raccontare, anche bella, se ci fossero dei suicidi ai ragazzi è anche divertente. Le spie che ci colpiscono, non con armi chimiche, non, certo, con virus informatici, ma una sorta di sterminio degli innocenti, come sì, appunto Erode, capito? Ammazzano, ecco, i nostri bambini con il Blue Whale, ma col Blue Whale. Allora, ecco, sì, sì, prego, concluda. Allora, Mauro Manca, come vedi? Ti faccio la domanda, sì, precisa. Sono appassionato, sì, di fiction, esattamente, sì, come su The Ring. Samara che esce dal televisore, a un certo punto il mostro entra in contatto con l'art e esce dal televisore. Questi pensano a un certo punto la balena che azzanna, o il mitico cattivissimo che sta dietro, potrebbe essere il pagliaccio, potrebbe essere dei tanti mostri della fiction, esca dal telefonino del figlio e dica: ammazzati, tagliati, fatti la balena. Ecco, cosa dire, genitore? Un collega mi ha chiamato adesso, ho una figlia di 15 anni, che faccio? Glielo dico o non glielo dico? Qui non è glielo dico o non glielo dico, perché qui bisogna parlare di questi aspetti a prescindere. Quando anche nel libro Autolesionismo nell'era digitale io parlavo già di questi giochi e di questi gruppi, attenzione agli hashtag che i tuoi figli digitano, a prescindere dal Blue Whale, bisogna parlare di forme di adescamento più in generale. Stiamo parlando di 2 adolescenti su 10 che sono sistematicamente adescati online da manipolatori mentali e da adulti, a prescindere dal Blue Whale. Veri, concreti, in carne ed ossa, pericolosi. È di questo che dobbiamo parlare, perché queste forme qui oggi sono un po' legate appunto a quello che dicevi tu, ai gruppi di mistero, i ragazzi si scambiavano queste informazioni, ma semplicemente perché ruotavano intorno alle paure adolescenziali, alle curiosità adolescenziali e quant'altro. Che poi è Freddy Krueger, scusa se ti faccio citazione, Freddy Krueger di Nightmare, esattamente quello, un mostro assassino che deturpa i ragazzi con i suoi unghioni d'acciaio, che altro non è che la creazione fantasmatica e loro turbe adolescenziali. E non si vuole parlare di gruppi di autolesionismo, di rifugi di questo tipo, di gruppi che istigano al suicidio e di giochi di questo tipo che esistono ma da tantissimo tempo. Però vedi che ci cadiamo, allora, che ci cadiamo, Maura. Noi abbiamo fatto una trasmissione, 10 giorni fa, in cui hai detto: non riesco a parlare nelle scuole agli insegnanti del fatto che i ragazzi si taglino, si buchino, si facciano male, che sia un fenomeno di autolesionismo diffusissimo. I genitori rifiutano che esista questo. Ha chiamato coraggiosamente qualche genitore. Però sono molto preoccupati e molto felici di parlare di qualcosa che non esiste, perché non fa male e soprattutto non li mette in discussione. Esatto, ed è indubbio che non si debba dare amicizie a chi non si... Cioè, i consigli che dobbiamo dare sono prima di tutto consigli che bisogna riconoscere i segnali di quando i figli rimangono incastrati nella rete più del cosa fare dopo, perché il cosa fare dopo è quello da dire ai figli e di spiegargli che dietro a tutte le amicizie e i gruppi che loro frequentano e i profili che loro vanno a controllare, ci sono tantissimi adulti che chi ha sfondi a scopi sessuali, chi ha scopi di manipolazione, chi ha altri tipi, ma sono forme di adescamento e i ragazzi devono essere messi in guardia quotidianamente a prescindere dal Blue Whale, e questa è l'assurdità. guardare non tanto la balena ma a Geppetto che sta dentro la balena. Mi dispiace di gettare fango o mettere dubbi su quella che è l'eterna favola che dovrebbe educare e ammaestrare tutti i ragazzi. Attenzione, come abbiamo cercato di farvi capire oggi con persone che hanno dignità di esistenza e di parola, proprio perché ognuno nel suo campo sono persone affermate. Andrea Angiolino, esperto in giochi da anni, vi dice che una totale bufala, ha analizzato tutte le fonti, non esiste. Tutto quello che viene detto è leggenda. Andrea Rossetti ha detto attenti soprattutto allo strumento tecnico. Mauro Manca vi dice i pericoli sono tanti, ce ne sono tantissimi. Non fate finta di credere alla leggenda e soprattutto non chiudete gli occhi su quelli che sono i problemi reali che attraversano i vostri ragazzi. Guardate le braccia, se hanno dei buchi, non è per la balena, perché c'è qualcosa che non va in famiglia. Alla prossima.